rival scopre nella reina, né mai compace una rival si trova. Ma non saresti amante se non fossi gelosa. In traccia io vado del mio teuzzo, lontano dai parilacci onde la vinse amore, non sa vivere il cuore.